Buonasera a tutti ascoltatrici e ascoltatori di Radio Città del Capo, anche questo giovedì sera, This is not an exit. È una puntata, direi, digestiva con i Carcass, un gruppo che è molto importante, di fine 80, inizio 90, un gruppo che copre perfettamente il nostro periodo di osservazione, che ricordo è tra 88 e 93 più o meno, un periodo in cui molte cose sono cambiate, a livello musicale sicuramente si cercava ancora di avere un impeto, un approccio futurista alla musica, c'era chi del metal cercava di andare sempre più veloce, in Napalm Death, e chi cercava invece di superare i limiti dell'efferatezza, i Carcass ci sono riusciti appieno. D'altronde anche loro venivano dal giro Napalm, il chitarrista Bill Steer, che era giro Napalm Death, era già titolare nei Carcass, e poi nell'87 cominciarono a uscire i primi demo. Ma presento subito anche i nostri ospiti, oltre a Dottor Scarpa, buonasera. Ciao a tutti, ascoltatrici e ascoltatori, e poi insomma saluterò anche gli ospiti. Presentali te però, Babbe. Va bene, abbiamo Marzio e Matteo che ascoltano i Carcass fin da tempi non sospetti, dico bene? Bella lì, sì, benissimo. Così pare. Ciao a tutti e tutte, niente, parliamo un po' di Carcass stasera. Sì, i Carcass che sono un gruppo particolare per l'epoca, ma che erano comunque molto seguiti, ebbero un ottimo successo, addirittura uscirono su Sony assieme ad altri gruppi di ERH Record, che era un'etichetta che faceva solo ed esclusivamente metal, peraltro. Sì, certo, i Carcass sono stati il gruppo che a inizio anni 90, insomma, noi abbiamo appena sentito un pezzo da Artwork, che se non sbaglio è del 95, quindi un pezzo maturo, sembrava dovessero essere insomma le grandi stelle del firmamento della musica estrema in termini commerciali, appunto. Ci si aspettava da loro quello che si era riscontrato, insomma, con Rage Against the Machine, Pearl Jam e altri. In realtà quello fu un grande fallimento per la Sony, perché il contratto con la Rage durò 2 anni e fu abbandonato per, appunto, scarsità di vendite. Dimostrata incapacità la vendita. D'altronde non sono proprio digeribili, dicevamo. Si capisce, però appunto i Carcass sono stati un gruppo molto importante, perché rappresentano nella scena grind, assieme a Napalm Death, sicuramente Brutal Truth e Nasum, le quattro grandi band a cui più o meno tutti gli altri si sono rifatti e si sono ispirati, e hanno dato questo, come dire, Carcass e Napalm Death sono riusciti a dare il là a un genere che hanno di fatto inventato. Appunto, Bill Steer suonava nei Napalm già dal lato B di Scam, perché il lato A è stato registrato da una formazione completamente differente. Jeff Walker anch'esso ha segnato l'inizio di un certo, come dire, imbarbarimento della musica, dapprima con gli Electro Hippies e poi entrando nella prima formazione pre-Carcass, di cui adesso non ricordo il nome, ma comunque trattavasi di hardcore piuttosto violento. E poi, appunto, devono molto anche loro, cioè ai Napalm, perché appunto essendo nati nella stessa epoca, avendo contribuito entrambi a gettare le basi di un genere, ovviamente non volevano pestarsi i piedi gli uni con gli altri, per cui se i Napalm Death puntavano molto sull'hardcore, sulla velocità estrema, i Carcass invece sulla complessità dei pezzi e sulla pesantezza, ecco. We'll be right back. 21 e 18 minuti primi in diretta da Radio Città del Capo. Un accenno di Ace of Base, ma poi siamo tornati subito, giusto perché ci siamo sbagliati, c'è poco da fare, ma siamo tornati subito indietro. Per una volta siamo partiti da uno degli ultimi dischi, Here to Work, dove si erano già parecchi evoluti, per poi tornare alle radici, al loro album manifesto che si chiamava Reek of Putrefaction, che si traduce più o meno lezzo di putrefazione. Poi se qualcuno, qualche gentile ascoltatore vuole correggermi, magari più esperto di me in inglese, do anche il numero di telefono. 051 24 19 10, ripeto 051 24 19 10. Ma è vero, no, che uno dei componenti del gruppo era uno studente di anatomia e i loro testi trattavano di questo? Sì, c'è stata la leggenda metropolitana per molti anni che tutti i Carcass fossero studenti di medicina e fossero diventati alcuni di loro anche medici. Non era vero, l'unico che ha tentato, diciamo, questo approccio era il cantante bassista Jeff Walker, e dai suoi dizionari medici ha attinto gran parte degli spunti per i testi dei primi tre dischi. Praticamente apriva il dizionario in una pagina a caso, trovava un parolone e ci costruiva dietro un testo intero. E è una componente molto metaforica dell'apparato testuale dei Carcass, che poi si è evoluto dal terzo disco in poi in una situazione molto più realistica e, diciamo, senza sovrastrutture, ma nei primi dischi erano soltanto declamazioni di malattie dal decorso orrendo, schifose anche da sentire. Una questione anche molto metaforica, nel senso, noi siamo questo, siamo un ammasso di carne e ossa destinata a decomporsi in un modo anche farsesco soprattutto, e questa è la componente molto ironica ma anche molto lucida dei testi dei Carcass dei primi tre dischi, che poi si è evoluta in qualcos'altro. Questa era Exhumed to Consume dei Carcass. Di solito noi qua in radio a This Is Not an Exit non presentiamo i brani dei gruppi che proponiamo, ma in questo caso è importante perché, come dicevamo all'inizio della puntata, se i Napalm Death cercavano di andare di essere il gruppo più veloce del mondo, i Carcass probabilmente cercavano di essere il più disgustoso del mondo. Più o meno il testo di questa canzone diceva: cupamente scavo le zolle per rimuovere cadaveri putrefatti, cercando di contenere il mio entusiasmo. Come ho dissacrato cripte putrescenti, dita ad artiglio e coperchie di bare, e cerco di esumare con gioia festa, insomma, con gioia di esultanza postuma, ovviamente, corpo strappato, appena sepolto, qualunque cosa prenda la mia fantasia per soddisfare la mia gratuita necromanzia culinaria, più o meno, e via così. Praticamente un grind guignol messo in heavy metal. Sì, cioè la cosa interessante in realtà è che ovviamente non ha senso, e dobbiamo pensare che sono dei ragazzini fondamentalmente che si sono inventati non solo una musica ma anche una specie di poetica, ecco. parlare di poetica ancora forse è presto, però col passare degli album appunto diventerà una forma di scrittura tramite cui appunto come dire, passare messaggi anche politici, sociali e quant'altro, sempre utilizzando appunto questo vocabolario che è fatto di termini tecnici dell'anatomopatologia. E in questa appunto costruzioni per cui ricordano molto, no, i B-movie e l'horror. Secondo me è importante però far notare che, a differenza, ecco, di altri gruppi di teenager che, dell'epoca, come i Cannibal Corpse o altri, i Carcass, se non altro, provano a darsi una veste intellettuale, sarebbe dire ovviamente un'oscenità, però provano a utilizzare una ricercatezza nel linguaggio, ed è appunto dovuto a questo utilizzo di termini tecnici presi dal vocabolario medico. you can hear people puking. They've done it. We'll be right back. 21 e 39 minuti primi a Radio Città del Capo, sempre in compagnia dei nostri amatissimi Carcass, Carcass che nei loro esordi erano poco più che adolescenti. Bill Steer aveva 16 anni all'inizio di questa epopea, che poi si protrasse fino al 95. Insomma, proprio il periodo nostro di osservazione, e un sound che negli anni tra l'altro si è evoluto, ma veniva da praticamente da suoni simili a quelli dei Discharge, dei Napalm Death, poi con alcune variazioni, anche i tempi si stavano evolvendo, finché poi finirono come tanti, come anche i Napalm Death, tra le mani del buon John Peel, che ricordiamo famosissimo DJ di BBC Radio 1, che un po' per nazionalismo, perché c'è poco da fare, apprezzava moltissimo i gruppi inglesi, ma non solo, un po' perché gli piaceva l'heavy metal e pensava sinceramente che fosse una cosa innovativa per l'epoca. Ricordo che siamo nell'88, li mise su e cominciò a spingerli quasi tutte le sere nelle sue tre puntate settimanali a BBC Radio 1, tra le 10 di sera e la mezzanotte. Infatti, dicevi prima che l'epopea stilistica dei Carcass è sicuramente interessante, perché se da una parte sono sempre stati molto coerenti con il loro suono e dall'altra hanno spaziato molto. Il primo album, che è dell'88, appunto Rico Putrefaction, è stato registrato in una giornata ed è il classico album grind. Registrato ovviamente malissimo, con un risultato di suoni pessimo, ma che lo rende molto affascinante, insomma, anche ascoltato tuttora. È il tipico album grind, pezzi da un minuto e venti, 22 pezzi per una quarantina di minuti totali, due voci, formazione a tre con chitarrista e cantante che cantano, power trio, insomma, di quelli notevoli, insomma. Più avanti poi cosa succede? L'anno successivo è l'anno non della svolta, non ancora della svolta, ma è un anno molto importante, perché registrano Symphony of Sickness con Colin Richardson alla produzione, e sperimentano per la prima volta nella loro carriera una registrazione professionale, per cui se il primo album è stato registrato in una giornata, adesso registrano un pezzo al giorno e per loro è una novità. E appunto Colin Richardson li mette sotto dal punto di vista dell'esecuzione, perché ovviamente come gruppo molto veloce e molto rumoroso è molto giovane e anche molto impreciso. Curando questi aspetti succede una cosa abbastanza interessante, perché c'è un aneddoto sotto. Da secondo album la formazione cambia, assumono un secondo chitarrista che è Michael Amott, se non ricordo male il nome, ma adesso guardiamo. Sì, è Michael Amott. Michael Amott, benissimo, il maggiore dei fratelli Amott. Esatto. Alla chitarra, chitarrista svedese molto dotato, che darà, appunto, come abbiamo sentito, una dimensione più metallica, sicuramente avvicinerà molto al metal il suono e lo avvicinerà a quello che poi diventerà, passerà alla storia come death metal svedese, cioè death metal melodico. Sono i primissimi Carcass, tra i primissimi che adottano questo tipo di sonorità, unendole però al loro sustrato grind. L'aneddoto, dicevo, è che Amott era stato contattato da Mitch Harris, il batterista dei Napalm Death, per suonare, per essere la seconda chitarra dei Napalm Death. Anche Mitch Harris e anche i Napalm Death volevano avere un suono più metallico, più metal, per cui cercavano una seconda chitarra. E avevano, dato che erano tutti tape traders, Amott pure, li seguiva i Napalm Death spesso prendendo il traghetto dalla Svezia e stando in Inghilterra per i tour dei Napalm. Gli era stato chiesto da Mitch Harris di unirsi ai Napalm, e con appunto Bill Steer, che era allora l'allora chitarrista dei Napalm, si stava studiando i pezzi dei Napalm. In realtà cosa succede? Che Bill Steer è molto contento, perché così può insegnare tutti i pezzi dei Napalm e poi concentrarsi sui Carcass. Michael Lamott invece voleva suonare con Bill Steer, però e quindi insomma non se ne fa nulla perché Bill Steer a un certo punto si chiede questa situazione che gli chiede di entrare nei Carcass. La risposta di Lamott è assolutamente no, perché Rico Procession è un album assolutamente inascoltabile. E appunto dobbiamo a Colin Richardson, alla sua produzione, al fatto che abbia messo sotto dal punto di vista strumentale i Carcass, il fatto che Amott, ascoltando appunto Symphonies of Sickness, cambi completamente idea e non appena gli viene richiesto di unirsi in formazione, corre in Inghilterra e registrerà due album che faceranno la storia dei death metal, che sono appunto Necroticism del, se non sbaglio, ho tutto qui segnato, 91, potrebbe essere 91, mentre poi appunto incide il capolavoro, che possiamo chiamarlo, io credo, il capolavoro dei Carcass, che è Artwork del 93, primo sbagliato, non è del 95, e per poi uscire dai Carcass e tornare in Svezia e fondare gli Arch Enemy e appunto proseguire la storia del death metal melodico svedese. Yeah. Beh, per chi fosse stato adolescente nei primi 90, ascoltare o vedere i Carcass dal vivo era un'esperienza nuova o quantomeno scioccante. Già i Napalm Death erano molto veloci, poi magari la maggior parte dei tuoi amici metallari ascoltavano i Metallica e i Megadeth, però rispetto a loro sembravano dei dilettanti dell'orrore. I Carcass erano un po' per la doppia voce, un po' per il modo di cantare, non tanto per la velocità e un po' per i testi e l'immagine orrorifica. Sì, facevano paura, erano un po' inquietanti, diciamo. Esattamente, più che altro scompensavano. Sentirli per la prima volta era molto destabilizzante, infatti... E anche nuovo, era un suono nuovo, un modo di cantare nuovo. È stato proprio un suono che ci ha messo un po' ad arrivare. Infatti tu prima citavi gli inizi, no? Vedere i Carcass agli inizi, ma già anche ai tempi del terzo disco, loro vennero in Italia per la prima volta a Roma. Al circolo degli artisti, mi pare, e quello era pieno solo per metà, perché nonostante loro fossero già famosi, Necroticism fosse già uscito, avesse già venduto abbastanza, ancora non moltissimo ma abbastanza, e il circolo era pieno solo per metà. Era una rivelazione abbastanza difficile da accettare in toto all'inizio, perché era veramente un assalto frontale sotto tutti i livelli, sonoro ma soprattutto lirico. E testuale, e nei primi due dischi soprattutto, ma anche in Necroticism, c'era più un aspetto, una duplice lettura. E se ti fermavi alla terminologia medica non vedevi quello che c'era sotto, che era già da allora una visione molto disillusa della vita, dei meccanismi che regolavano la quotidianità del mondo, eccetera. Da Artwork in poi, che sono stati poi gli ultimi due dischi, la maschera l'hanno gettata, è diventato l'aspetto lirico, è diventato molto più prosaico, meno sarcasmo, meno metafore, meno terminologia medica strana, più linguaggio diretto, inequivocabile, inderogabile. Cioè, le cose stanno così, noi siamo questo. Erano testi impossibili da equivocare, diciamo il nero e l'assenza totale di luce, di speranza aumentava sempre di più. Infatti prima abbiamo sentito Keep on Rotting in the Free World, il primo pezzo dal loro ultimo disco, Swan Song, uscito quando il gruppo era già sciolto. Non ci fu un tour di supporto, di promozione al disco, il gruppo era già sciolto da un anno, e è una specie di dichiarazione di intenti, come leggere un romanzo di Cormac McCarthy adesso, soltanto con una musica di sottofondo molto più pesante e che fa più rumore. We'll be right back. Sono finalmente le 10, dico finalmente perché chi non è abituato a questa sonorità avrà un po' le orecchie sfondate, però dico sfondate, ma in realtà ormai nel 2015 i Caracas non fanno più paura. Dicevo prima invece che magari nel 92-93 erano veramente qualcosa di nuovo, ma diedero anche inizio a una genia, a un'idiata di gruppi in Inghilterra, in Svezia, negli Stati Uniti, che poi girarono tantissimo e vennero anche in Italia, magari in piccoli posti come l'Atlantide, come è stato l'Atlantide fino a poco tempo fa, ma non solo, alcuni ebbero anche successo e poi oppure divennero altro, si misero a fare stoner. Beh, sì, infatti come abbiamo sentito, Keep on Rotting, prima abbiamo sentito dall'ultimo album, effettivamente non sembra più lo stesso gruppo dei primi anni. Il suono è appunto molto stoner, i tempi sono più cadenzati e quindi insomma un'evoluzione, come dire, che poi dopo ha dato il là a tanti gruppi, appunto ci sono gli Spiritual Beggars dello stesso Ammott, ma gli stessi Firebird e Black Star di Bill Steer e di Jeff Walker, una volta abbandonati i Carcass, una volta scioltisi i Carcass, possono essere degli esempi. Io volevo, come dire, parlare un attimo della faccenda, ecco, un po' più tecnica. Abbiamo sentito due tipologie, ecco, di momenti nelle canzoni dei Carcass. Loro erano molto bravi nei tempi cadenzati e lenti e molto bravi a farli seguire spesso e volentieri in maniera anche improvvisa da dei blast beat. Che cos'è il blast beat? Il blast beat è quella cosa inventata, probabilmente si dice gli inventori potrebbero essere due riconosciuti, uno Mitch Harris dei Napalm Death e l'altro Charlie Benante degli Anthrax, più che degli Anthrax degli SOD, negli SOD aveva utilizzato questa tecnica. Ci sono teorie discordanti, ad ogni modo cosa consiste? Una tecnica batteristica che consta nel far seguire a un colpo di rullante, tendenzialmente suonato in maniera forte e precisa, a un colpo di Charleston, nella suddivisione dei sedicesimi oppure dei trentaduesimi, a velocità ovviamente il più veloce possibile. Per cui questa, come dire, rullata molto forte, sono tutte rullate di fatto, che però vengono eseguite sul Charleston e al posto di essere rullate, cioè dei fill, sono proprio il tempo. Quindi il groove tipico del grind è stato, come dire, inventato su una, praticamente su una follia ritmica, che in realtà veniva utilizzata spesso appunto nei fill, anche nel jazz per esempio, anche nel bebop viene utilizzata questa tecnica, assolutamente non a questi volumi, assolutamente non così tanto spesso e nessuno, e non così veloce. Ma così veloce credo che sì, invece, perché il bebop non sembra, ma andava anche addirittura molto più veloce del grind in quanto a BPM. Ci sono pezzi bebop che arrivano addirittura a 300 BPM. E le follie ovviamente dei tecnicismi, qui stiamo parlando di altri tecnicismi, perché appunto tutti questi musicisti, stiamo parlando dei Carcass, Napalm Death, ma anche Cannibal Corpse, ma anche Morbid Angel, tutto il death metal, il grindcore, in realtà è fatto di musicisti che si sono fondamentalmente inventati il modo di suonare il proprio strumento. Da ragazzini, tutti appunto ragazzini di 15-14 anni che prendono in mano lo strumento e come dire, ci si inventano sopra la cosa più veloce e rumorosa possibile. Un altro aneddoto per esempio divertente è che Ken Owen, il batterista dei Carcass, viene scelto perché compra una batteria. Lui ha una batteria, quindi può suonare nei Carcass. Beh, spesso era ho lo spazio per suonare la batteria, quindi compro batteria, quindi venite a fare le prove da me, quindi facciamo, esatto, il gruppo. Sono musicisti che si inventano fondamentalmente il modo di suonare e se sicuramente non lo fanno nella maniera più impeccabile, c'è dare atto che non solo si sono inventati un genere, ma anche uno stile. sulla batteria sicuramente quello, su quello sono più, come dire, competente, però anche negli altri strumenti, nelle voci soprattutto, e così via, no? Inventandosi, come dire, il modo di andare più veloce e tutto quanto, hanno aperto poi a quello che sarà il metal estremo, che adesso viene addirittura insegnato, insomma, cioè è di dominio pubblico, insomma, come si suona in un certo modo senza farsi venire tendiniti o altro. Loro lo inventano. E inventandolo succedono queste cose molto strane, per cui i primi concerti erano effettivamente, dovevano essere molto divertenti, perché il pubblico era abituato sicuramente a gruppi hardcore, più hardcore, stiamo parlando nell'87, 88, addirittura 85 per i Napalm Death di Birmingham, una provincia operaia dell'Inghilterra, in quei tempi colpita dai tagli al welfare nei posti di, per quanto riguarda i posti di lavoro voluti dal governo Thatcher. Era una provincia dedita all'industria automobilistica, Birmingham, per cui questi appunto pubblici che abituati all'hardcore si ritrovavano in questi pub scassati, appunto molto piccoli e molto anche, come dire, fatiscenti, non so se è la parola giusta, però diciamo che ricordavano molto come atmosfera quella che si è potuta vivere anche qua a Bologna, appunto ad Atlantide, al Lazzaretto di Via del Lazzaretto, e che in Inghilterra, appunto, a differenza che a Bologna, non sono stati chiusi, ma sono stati lasciati liberi di esprimersi fino al punto di aver colonizzato il mondo, ecco. Per cui se non abbiamo, come dire, dei grandi artisti bolognesi famosi in tutto il mondo che non siano Vasco Rossi, beh, forse qualcosa lo dobbiamo anche a questa amministrazione. Thank you. Gentili e gentilissime ascoltatrici, ascoltatori, insomma, grazie della pazienza per aver ascoltato tutti questi Carcass. Ma no, non è vero, i Carcass ci piacciono, spero piacciono anche a voi. Si sono evoluti, questo invece era un brano delle primissime registrazioni, ma tutto questo non sarebbe potuto essere senza un'etichetta fondamentale, che era sempre della zona, delle Midlands si chiamano, cioè di quel territorio a nord di Londra, molto grande, molto popolato, molto densamente popolato, che è stato profondamente industrializzato, Birmingham, Nottingham, e a Nottingham c'era l'Erage Records, fondata proprio in quegli anni, l'85, da Digby Pearson, consentì a tutti questi gruppi di esplodere e di avere una distribuzione a livello mondiale. Esattamente, la Erage ha messo l'Inghilterra sulle mappe del metal estremo. Prima di allora l'Inghilterra era sicuramente sulle mappe, ma per tutt'altri generi. Per New Wave of British Heavy Metal, ma si andava indietro a 77. Esattamente, ma per tutti gli altri generi, New Wave, post-punk, lo stesso punk, l'Inghilterra è stata molto rappresentativa, ma per quanto riguarda il metal estremo non c'era un'etichetta che fosse baluardo e rappresentasse proprio la scena stessa. E i Carcass erano una delle band di punta del catalogo Earache, tanto più da arrivare a essere acquistati da una major che in quell'anno, mi pare fosse il 93, acquistò proprio l'intero catalogo della Earache. Tutti i dischi uscirono per la Columbia, mi pare, e tutti i dischi si rivelarono degli insuccessi clamorosi. L'unico fu il disco di cui parlavamo prima, Artwork, dei Carcass. Ma gli altri gruppi, ne cito alcuni a memoria, erano i Godflesh, gli Entombed, che non arrivarono a incidere niente perché il contratto gli scadette nel frattempo, i Cathedral, tutti i dischi che andarono molto molto male. L'unico che andò veramente bene fu Artwork dei Carcass, fu un successo commerciale, mi pare arrivò a vendere oltre 130.000 copie, che per un disco di metal estremo sarebbe stato come venderne milioni per un disco di musica pop. Un esperimento che non conobbe un seguito, perché le vendite di tutti gli altri dischi Earache andarono malissimo, segno che era un genere assolutamente non addomesticabile, perché nessuna delle band messe sotto contratto dalla Columbia ammorbidì in alcun modo la loro proposta, e quindi fu un genere destinato a tornare nei sotterranei, nell'underground. Gli unici furono i Carcass, ma questo comportò anche il loro scioglimento, perché in seguito alle pressioni esercitate dall'etichetta su di loro, e il disco accumulò i ritardi e non uscì più, fino al giorno in cui Bill Steer, esasperato dal continuo tira e molla con l'etichetta, mollò il gruppo e i Carcass si sciolsero. We'll be right back. Beh, siamo quasi in chiusura, sono le 22:24 minuti primi qua a Radio Città del Capo. Vi promettiamo di essere più morbidi il prossimo giovedì, dico bene Rosario? Vabbè, non promettiamo, ma sono sempre promesse da marinaio, quindi non si può dire, è una sorpresa. Beh, diciamo che comunque andare oltre i Carcass tra l'88 e il 93 non era proprio agevole, diciamo che erano tra i pesi massimi del metal estremo. Comunque ringrazio molto Marzio e Matteo che ci sono venuti a trovare e hanno portato i loro ricordi, le loro interpretazioni di tutto un genere che c'è poco da fare. In quel periodo, sto parlando dell'inizio degli anni 90, esplose letteralmente e generò tantissimi altri epigoni e non solo, poi si evolse negli Stati Uniti, in Svezia e anche nella stessa Inghilterra. Che dire, buonanotte a tutti, spero non facciate troppi incubi e a giovedì prossimo. Buonanotte. Buonanotte. Ciao a tutti e tutti.